nella mia vita, tu sei brama infinita. Tutto il mondo è un infarto, mio tesoro sta mutando. Oh, due, vieni con me adorata, vieni fanciulla sul mar. Ecco ti la serenata di chi sa tanto amar. Per sempre amore, or si scioglie il velo, s'arroventa il cuore, e ti canta d'amore.